America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The committee expects only a moderate pace of economic growth over coming quarters, reflecting ongoing drags from the troubled housing sector. Still tight credit conditions for many households and smaller businesses. Ben Bernanke ha festeggiato ieri il suo compleanno, ha compiuto 58 anni, lo ha festeggiato con un incontro del Comitato Monetario della Federal Reserve, non forse un festeggiamento ideale, anche perché, diciamolo, le cose non è che stanno andando molto bene. Bernanke ha deciso con gli altri membri del Consiglio Direttivo della Federal Reserve di fare una pausa, ha lasciato la politica monetaria esattamente come era prima, ha ribadito che le decisioni di settembre, quelle cioè che hanno introdotto l'operazione Twist, lo ricorderete, l'idea di vendere titoli a breve per utilizzare i proventi e riacquistare invece titoli con scadenza a lunga, quindi modificare l'equilibrio del portafoglio della Federal Reserve, 400 miliardi di dollari fra ottobre e giugno, ecco, questa operazione andrà avanti, ha già dato dei risultati. Il tasso di disoccupazione, l'abbiamo visto, è sceso all'8,6% dal 9%, quindi siamo sotto il 9, certo non è detto che ci resti, però è stato un segnale incoraggiante. Nel comunicato della Fed si dice che ci sono dei modesti segnali di miglioramento dell'economia, ma resta ovviamente la preoccupazione di quel che succede in Europa. Un'altra notizia, l'abbiamo pubblicata questa mattina sul Sole 24 Ore, una squadra del Fondo Monetario Internazionale arriverà fra lunedì e martedì in Italia per incontri e per cominciare a capire un pochettino la natura della manovra, per capire come poter impostare le future missioni. Si tratta per ora di una missione esplorativa, però resta comunque l'avvio di quello che potrebbe diventare un dialogo importante fra Roma e Washington attraverso appunto il Fondo Monetario. Di tutto questo vorrei chiacchierare con Luigi Zingales, editorialista del Sole 24 Ore, professore a Chicago, con noi in linea appunto da Chicago. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Cominciamo dalla Fed. Ma secondo te Bernanke ha fatto bene a star fermo? Io direi proprio di sì, nel senso che si è già esposto molto facendo manovre aggressive. In questo momento l'economia americana sembra in un percorso positivo di lenta crescita, deve anche non spaventare i mercati con iperattivismo. Ecco, da Bernanke è venuto un messaggio di preoccupazione sempre per l'Europa. La BCE secondo te sta facendo abbastanza? Secondo me c'è stata una svolta abbastanza importante della BCE quando Draghi, o meglio il Consiglio, hanno approvato queste linee di liquidità a lungo con un collaterale più generoso, diciamo, e questi sono due passi importanti, cioè le linee di liquidità a 36 mesi all'1% sono estremamente vantaggiose e danno un certo respiro alle banche. 36 mesi sono un buon periodo di tempo, e il fatto che vengano accettati come collaterale sia titoli sovrani che anche mutui o ad altre cose permette alle banche un largo accesso alla liquidità. L'unica cosa che posso dire è che vorrei poter essere una banca anch'io in questo momento. Però alla fine il mercato non sembra percepire questo messaggio. Perché secondo te? Secondo me in questo momento ha paura di sviluppi negativi, nel senso che questa manovra riesce nella misura in cui, due ipotesi: uno, la crisi è una crisi solo di liquidità e non di insolvenza, e la situazione economica non peggiora. Se a un certo punto si ha la percezione che la crisi sia di insolvenza, qualsiasi manovra anche di questo tipo non può risolvere il problema. Quando parli di insolvenza ti riferisci al fatto che le prospettive di crescita per il nostro paese non sono molto buone per l'anno prossimo? Secondo me il governo Monti ha fatto molto dal punto di vista di cercare di mettere in ordine i conti, però rimane un serio rischio che tra il credit crunch e questa manovra che è chiaramente restrittiva, il prossimo anno l'Italia abbia una decrescita del PIL del 2-3%. A questo punto che cosa fa? Perché l'Italia quindi non raggiunge il pareggio di bilancio nel 2013, questo vorrebbe dire che Monti dovrebbe fare un'ulteriore manovra di aggiustamento fiscale. A quel punto il rischio di una rivolta della gente non è irrilevante. Ecco, noi abbiamo dato notizia questa mattina di una visita del Fondo Monetario Internazionale in Italia all'inizio della prossima settimana, una visita programmata. Come giudichi il ruolo del fondo? Sicuramente è una possibilità, diciamo, da un lato limitata come quantità, secondo generalmente molto, molto costosa. Però sapere che esiste questa opzione nel caso un'asta vada deserta dà una certa sicurezza. Torniamo un momento all'America. Ieri Bernanke ha compiuto 58 anni e devo dire non è stato un compleanno felice, un po' perché il Wall Street Journal l'ha attaccato dicendo che la sua legacy poi non è così chiara, resta un po' incerta. Secondo te è vero? Ci sono luci ed ombre sul suo percorso. Io ho sempre detto che nella prima fase lui ha delle grosse colpe. Da un lato è stato il cheerleader della riduzione dei tassi ancora come membro del board nel 2003 e ha continuato questa politica quando ha preso il controllo della Fed. Fino, diciamo, a il 15 di settembre del 2008, secondo me, il mio giudizio è un giudizio insufficiente. Poi, diciamo, da quel momento in poi, soprattutto nei primi 3 o 4 mesi, invece ha avuto una reazione straordinaria, nel senso che ha avuto il coraggio di prendere iniziative molto aggressive, molto al di fuori dello standard, che possiamo già dire oggi cruciali per ridurre l'impatto della crisi. Da lì in poi, secondo me, è stato troppo aggressivo nel cercare di gestire lui la politica economica del paese. Ultima cosa, la Merkel resta un po' un mistero. Ieri ha fatto delle dichiarazioni che hanno di nuovo deluso e ammazzato il mercato. A che gioco sta giocando la Germania e la Merkel in particolare? Da un lato, secondo me, lei sta facendo una politica seria di cercare di forzare i propri partner a una responsabilità che altrimenti questi non avrebbero. In questo senso è positivo. Dall'altro c'è una tensione tra gli interessi, diciamo, interni della Germania e dall'altro i partner europei. Lei deve essere eletta o rieletta nel suo paese, avere il consenso del suo paese e nel contempo deve cercare di gestire i partner europei. Quindi è un discorso molto difficile e lei sta giocando sul filo del rasoio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bernanke ha compiuto 58 anni, Taylor Swift ne ha compiuti ieri 22, probabilmente alla sua tenera età è molto più famosa a livello popolare del governatore della Fed, questa giovanissima cantante della Pennsylvania, pensate, è l'unica musicista donna che è riuscita a conquistare 5 top 10 nella storia della musica country. Lo ha fatto col disco di debutto che è rimasto in classifica 81 settimane. Dunque, un augurio di buon compleanno a Bernanke, che non ha avuto una giornata brillantissima, viste le critiche di cui è stato oggetto, da Taylor Swift, Mine. You were in college working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with the fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!